benissimo, serio. E via. E comunque io mi accorgo perché c'è un caffè e ci metto la cosa dentro. Cosa mi da fuggi? Adesso vediamo, ora, vediamo cosa fare. Perché c'è un ripiano dove c'è il coso. Il come si chiama? Il giradischi. E poi sotto c'è un altro ripiano dove c'è un stereo, io lo sollevo e metto lì l'alimentatore. Sopra mette malattia, sotto l'alimentatore. Hai cappagliato, no, io prima di averlo una di quelle stufe metal l'avevo fatto, l'avevo smontata e avevo fatto i ripiani, sotto tutti c'era il lineare, pure sopra c'era l'argolo e pure sopra ancora c'era l'FT e pure c'erano i baracchini piccolini che rimanevano un po' dappertutto là. Però adesso ho deciso di fare questo mobile e niente, e ci metto tutto dentro, bene ordinato, questi microfoni mi sembra che quindi ci butto via tutto e me ne faccio uno che vada bene per tutti i baracchini, al limite faccio cambiare le connessioni e li faccio fare tutti quanti con le connessioni uguali e così microfono uno solo e boom. Tanto bisogna comprarlo ogni tanto perché, vabbè, sono poi per le abitudini. E tu non posso venire da Marco e mi a pilare il caffè ogni tanto. Beh, infatti, sai, attivo la terra, andare sulla ciocca. Così è lui. Cosa? E trova la tua serranda per tutti, così è. Non capisco che ci sono mettere che sta giudato. Ho detto, mi fa tanto che trovare la tua serranda per tutti. E fa cosa? Ha un caffè. Al massimo mi dà un caffè. Cappa, cappa, va bene, lo va. Ma se la bussi meglio, va. Andando, lo va, vediamo, vedo come frigge, va. Lo va, puttina. Allora, lo va, lo va. Ciao, buonasera a tutti. detto l'M è quella. Tanto per alzare il volume, ma ascoltati, è quello che lo lascia per ascoltare a Luca, perché sei basso del radio, non sei. Non hai il timbre che se sono i gravoci strappi, perché lo so. Grazie, gappa. E anche il microfono no, che mi piace tanto vedere un po' di cazzo. Quella radio lì, l'FC 707. capito? Dalla linea, tutta la linea di quella roba lì. Non è una cosa che non è mai piaciuta trasmettere. Ascoltare sì, ma trasmettere no. Ai cappagappa. Io li ubriaco per poter ascoltarmi adesso è perché ci sto modulando per vedere come va, come non va, cioè, perché giustamente devo, piano piano dovrò conoscere, no? Io, Federico, cittadino di Nova, municipio di Axelrad. Non era di parte da Santa Maria, senza offesa, ma io se mi esprimo. Quando una radio mi piace, ricordo tutte le caratteristiche tecniche, quella è una radio molto, molto vecchia, parecchio vecchia. Una radio avrà 20 anni, sa radio, capito? Vabbè, non è neanche a sintonia continua, quindi non so cosa, che operazione abbia fatto, comunque mi farei sapere più avanti. Cosa stavo dicendo? Allora metto di... Non mi ricordo più. Come non è sintonia continua questa qui? E c'è il pomello come... c'è il WTO come... le cose diciamo, più o meno, come le PT. Ma tu mi hai detto 707, ok? Quello lì fa delle memorie, quella che si apre il cassotto con i tastini, cioè. Ah? Ehi, già. Allora, lascia perdere, sto dicendo che non è sintonia continua. Quindi, quella non è sintonia continua. Se tu leggi, c'è scritto le bande che fa, non è sintonia continua. Non gira la mano a quelle dove vuoi. Non è così. Vado dove c'è scritto quelle bande, dove c'è scritto bande, in quelle bande là, è buono. Ah? Allora, è un becca metrico. Becca metrico, non è la sintonia continua. È un apparato becca metrico. Ok. Zappa, e infatti c'è scritto bande. 18, 17, 20, 90, 80, 40. Il 90 non esiste. E poi c'è le bande 10A, 10B, così è. K. Così sono le bande della 27. Capito? Ti fa la 27, poi c'è tutti i vuoti, tutti i salti. Vai solo in 40 metri, in 80 metri, e non c'è neanche se vai 20 metri, capito? Beh, 20 c'è, no, sì c'è, 17, 20, 30, 40 e 80. Solo quelle sono perché è decametrico, non confondere una radio decametrica con una radio anche la sintonia continua. Quella è decametrica, io di quelle ne ho tre. Sono tutte decametriche. Praticamente lavora la mia, lavora in 10, in 12 più grande di quella, in 10, in 12, in 15, 17, 20, 30, 40, 80 e 160 metri, quella è 160 metri non ce li ha. No, negativo, 160 niente. Il massimo è 80 metri. Perché questa è quella che hanno fatto dopo, della via Giuseppe 902 DM, ma quella che hanno fatto dopo. Quella radio è una radio decametrica, che è ancora più vecchia di questa di qui. Siccome sono radio decametrica, 27 non è che puoi avere il massimo, capito? Vabbè, le scelte si fanno, tu hai fatto quella scelta e va bene così. Però io, ti ripeto qua, non la uso mai in M perché non ha nessuna soddisfazione. Forse anche pochi volte. Allora, Luca, uscire di allora. la bambina piccola, magari c'è la moglie che è al volo, non ce l'ha fatta passare, non lo so. Mario. Dimmi qua. Non è più l'uso? No, perché non è l'uso. Ok, cioè, ci mancherebbe altro. È una cosa che... E niente, comunque credevo che andava molto, molto meglio. Invece mi stai dicendo che addirittura Mudo è negativo. Fatto non ti aspettare molto le molte cose con la radio. Se no te l'ho detto, è una bella radio, ma penso che è bella la radio e la fa bene come ricevitore e come trasmettitore, in modo naturale dove però che non ci puoi andare. Tutto lì. In AM non ti aspettare niente, è una radio fatta la strada. Poi campa, non c'è problema. Quando poi sarà, rimedieremo con l'altro e così c'è un po' di roba da vedere, bella. E come te la tieni come ricevitore? Allora, già va bene. Non vorrei che te la davate come sintonia continua. Lui mi stava dicendo che c'ha i salti, però adesso se vuoi fare come dice la sintonia continua, io gli ho detto no, se c'ha i salti non è la sintonia continua. Comunque è bellino da vedere, tutto illuminato, bene, insomma, non è brutto da vedere, là. E poi anche tu mi stai dicendo che come ricevitore va molto bene, così che lo tengo come ricevitore per mandare il materiale, quando voglio ascoltare ascolto, tutto lì, non è che niente, capito? È anche limitato come frequenza, capito? Mi ne mancano le frequenze. Ma questo non è cambiato perché non è sintonia continua, non è perché c'è la mamma qua, uno dice che è sintonia continua. Se le cambiate dice che è sintonia continua. Quello del decametrico non è sintonia continua, come questi che ce ne ho io a decametrici, capito? Vabbè, è determinato, ora vado e su questi metro, lo smettere di un macchino a LED, che poi tra l'altro si illumina solo i LED, non è che si illumina tutto il lo smettere, ho capito perché. No, ma c'è anche quello delle memorie che si accende. Sono i puntini che si accendono là. Sì, va per quello, ma quella là, una cosa opzionale. Io sono ancora la cosa però che va attaccato lì. Si va a 150 watt. E c'è la cosa però che si illumina tutto. Con carico fittizio attaccato, tutto c'è il DIN. Comunque, mi dirai quando ci vediamo che operazione hai fatto. Sono curioso così, ma non perché. Per sapere i fatti tuoi, ma sono curioso di una cosa. Sai che non c'è nel problema qua. Davvero, io quando faccio le cose le faccio alla luce del sole, non nascondo niente, non mi interessa niente. Purtroppo con Luca ha pigliato tutti i fiaschi, non è colpa mia. Davvero, comunque niente, capiterà l'occasione che allora si piglia uno, quello che si dica. Di più non posso fare. Cioè non è che faccio le cose così io. Era una cosa che dovevo pigliare quello lì, Luca mi si è fatto sentire, Pompogno mi aveva prestato il suo e poi mi ha portato questo qua, tutto lì. Ma se l'avete preso anche me lo suo? Cappa. Ah, dovevo mettere la casa sua? Non lo so, dove lo deve mettere. E a me mi ha portato questo qui, c'era mio figlio a casa e niente, ha portato questo e si è riportato via il suo. Sì, ma ha prestato questo, se hai preso il suo, o tu questo l'hai pagato o te l'hai comprato? Ho questo pagato. Ah, ho capito, capito. L'ha pagato. Vabbè. Adesso vediamo se Antonio se lo mette a casa sua. Se lo usa di nuovo lui. Penso di sì. entrato ieri, l'avevo detto ieri, l'avevo detto anche l'altro giorno, che lui ci mette problemi, che pure i problemi non ci sono. Allora, già glielo ho detto che è uno di poca parole, che mi ha bruciato l'appuntamento e mi ha fatto rimanere in casa come un coglione per niente. E comunque va bene, là. Glielo ho anche detto che non mi fiderò più di lui. Vabbè. Quando a volte c'è scritto con gli altri, Mario, si sbaglia sempre. Io ho imparato a fiutare me stesso e persone affidabili. Dove ti dico? Lui pensava che tu eri già a posto, quindi no, non ci è venuto, però ho sbagliato, non te l'ho fatto avanti. Quindi non ci è venuto anche un mio Luca. Cosa devi fare? Magari c'è poco da fare. Cosa devi fare? Per fare quella tarattura ci vuole un strumento, quindi se lui te lo può fare. O lui o quello, o quella montagna. Capito? Con lui da quelle montagne, lì c'è poco da fare. Dille tutto, capito? Io che praticamente non c'è stata a casa mia, vale mio nome, che a casa mia funziona perfettamente, però lì non amplifica. La seconda volta hanno attaccato l'alimentazione da 8 volte. E poi c'è da fare la regolazione, tutta la regolazione dell'LC, tutta la parte. La frase che spinge, perché così non va bene. Non è radio. Te lo chiedo, eh? Diglielo a Mario, diglielo, scusa, eh. E lo dici? Gamma, salve, va, perché lì sono per forza protetta, Dario. Ci metto 5 minuti. Glielo lasci, e dici, guarda, questo, questo e questo. Quando me la dai? Fra 2 giorni, ok, ci vediamo fra 2 giorni. Ciao, arrivederci. E ti nani, noi li devi trovare al salotto. Telefono, fatti dare il numero da Coso, da Franco, non so, senti Franco, io ho trovato il numero di Franco, no? Ah, senti Franco, avvicinati. Dove sei questa settimana? Ma tardi sei rientrato. Ma Luca, adesso ce n'è, Luca. No, sono al telefono qua, eccola. Ehi, ehi, avanti, Marco. Ehi, scappa la roba che ti dica. È così, adesso, quando viene, vediamo, anche perché mi deve spiegare tutte le cose, capito? È vero, perché... E così non è che uno si nasconde dietro una cosa. Vabbè, va bene, va bene. Poi comunque io sono sempre dell'idea che il 680, se riesco a recuperarlo, o 140, che è simile, è solo che c'è qua la banda là in meno, ma più o meno l'apparecchio vale la stessa cosa, anche perché non è che sono... diciamo così, ha detto a quella frequenza lì, non me ne frega niente. Fuggeretto Mario, ho capito? Ho detto che quando viene mi spiega poi il 680 o il 140, prima o poi me lo compro. Davvero, non c'è stato nessun problema. Tanto non è quello che mi impoverisce. Non capisco come abbia potuto fare una scelta del genere sapendo che io non so perché ha fatto una scelta del genere, ma non te lo dico quella, te lo dico in verticale. Vai, cappa cappa, già ci troveremo, vabbè, non c'è problema, questo sabato perché ero impegnato, mi sarò stamattina lo stesso impegnato. Altrimenti ti avrei chiamato e te ne mandate al bar per il caffè a fare colazione. Sì, già abbiamo lì il tempo, Mario, non c'è problema. L'unica cosa non capisco come abbia fatto la scelta di questo 707. Pur sapendo che non l'ha provato, ma una grandissima cagata. Vabbè, io già lo so perché. Vabbè, hai capito me, Luca? Claudio, dillo quante volte l'hai chiamato e ci aveva sempre il telefono in attesa, Luca, cioè non ci crede che tu stavo sempre cellulando a chiamarlo. Come tra l'altro lo è sempre stata, non è che abbia tutte le soddisfazioni. più. Adesso la rotta qui della guida è attacco mio. È vero. Sicuramente si sente molto meglio, molto più forte sia di radio che di segnale anche, perché si muove più venti con picchi negativi, quindi non è che hai tutto questo nel segnale, col tuo esci molto più forte, sia di radio che di segnale, che ormai è stabile, 9 più, quasi più 30, e niente. Ok, vediamo se Luca ha finito il telefono, finito Luca. Riprendi il flipper. C'era qualcuno sotto Alfa Lima, non ho capito bene perché stava attaccando l'antenna. Oh, non ce l'ho attaccato, Mario, lo so, attacca quello tuo intanto. Però abbiamo pulita quel microfono, Mario, l'aveva pulita. Gli altri non vanno bene, la 3 addirittura è troppo cupa. la 2 rimane chiusa, non hai nessuna tonalità microfonica, la 0 invece hai questa apertura dei medio-bassi molto incisivi, va bene così, lascia la 0. Avanti, break. Buonasera Roberto Quadrato, ho sentito Claudio, ho sentito adesso di sfuggita, sento non tanto forte Marco, da dove sta trasmettendo? Sì, capo, questo è il senso, facciamo girare. Va bene Marco, lascia quella posizione. Vabbè, quando accendo la radio, consiglio così di, sai, tira due minuti accesa, ascolti chi c'è e così poi non hai problemi di variazioni. Allora ci sono io, c'è Luca, c'è Mario Manser e c'è Gianni Doppioluma. Avanti Gianni, a te il microfono. Scappa, è la proprietà che facevo tante cose poco fa, mi sono dimenticato di salutare. Avanti, vabbè, ciao Marco, buon così. Avanti Roberto. Ciao a tutti, ciao Marco, ciao Claudio, ciao Mario e ciao. Ci ha aperto anche uno schifo bello sui fatto due schicchiate a un ungherese, Ungheria, c'era cioè l'Ungheria, e poi il solito problema è stato l'ora prima di capirti, per carità. Hermano, perché sono lunghi, lunghi, pulpi, orate, ne sono 500 farti sognare. La giornata di due tanto di collegamenti, facciamo un po' comprare tutte le tue celle. Sono troppo anche da fare collegamenti. Poi dicono, vai. Cioè, come se cannonare il viareggio. Allora io ho fatto 1100 collegamenti. Sul computer, apro la pagina e scrivo nome attivo. Una volta c'è nome attivo, io vado su qualsiasi.com e mi stampa tutto in automatico già. E finita la penna qua, e lo già di bucato al computer. Ma quindi cosa stai facendo? E che cosa sto facendo? Mi buttano fuori dalla sessione, devo passare a farlo qualcuno per far vedere che esisto, capito? Iniziate, se cambia il tempo si parte. settimana, comunque adesso vediamo, io rientro il 10 di marzo. Yeah. è vicinissima a casa. Con la Corsica, con la Francia, non solo Corsica, ma solo la Francia, Ville Juene, tutte le partite. Calma, calma, ma con i corsicani vi capita di parlare, ci avete parlato? Sì. Sì, qualche volta mi è capitato, Ajaccio, ma non siamo nemici con te di Ajaccio che fa pelle il passiere qui. Dietro le montagne, tipo Aiaccio, Bastia, sono molto dietro, ci sono molti, i monti sono molto alti, quindi magari a volte non ci sia qualche paesotto lungo corsa, se ci sia qualche appassionato di lì. Ma perché non ho un'ami di trascorso in Italia? Facciamo una vigilizia lì, se curte la cosa, i sì, la stazione del Tarmomeo, della Ville Sassoli, ma vanno nel mio. Ma sappiamo, io sento Roberto, sento Gianni, sento tutti, no? avanti, Gianni, lo stiamo dicendo. Che qui arrivano le prese, ti comprate qua. Sì, perché sono davanti a te, ci vai con il braccio. Io sono da tutta l'altra parte, davanti a te. Quando poi siamo in verticale, ti dico, il punto esatto da quello che abbiamo fatto. E poi vediamo. Attento, perché quello che è l'ascolto può sempre riferire, capito? Poi non e chiamare a tutti. Io non chiarire niente con le scimoie, io non arrivo a nulla. Deve chiarire lui, perché la volta che ci esprime in quella maniera lì, so quello che è vero. Allora sì che abbiamo un avvero. Ma se parla non fa, va. Sì, ma devi tornare già, vai. Ehi, Attento collega, se ascolti lo fai ad ora, gli anni doppio ruolo che te va chiamando. No, cazzo, ma questo microfono non faglia sentire la radio, no? Ho detto non ti sente la radio. Sta salutando. Perché non mi sente? Ciao amico Colombo, dai. Alla prossima, buona serata, ciao ciao. Ecco, ecco. sentiva molto molto forte la radio prepotentes. Ehi, prepotentes est l'accetos, vai Luca. Ci torniamo a notte. che sta rimasta notte, mi sta confermando mia figlia. E quindi faccio già la radio, non c'è nessuno, ma mi sono collegato. Ma io lo porto io, lo parlerò. male, tutto va bene, cioè tutto va male oggi. Tu no? Sì, ciao, lo vedi. Sì, l'ho ben sentito, non lo facciamo, organizziamo una piazza dei fini che c'è un po' di spazio. Un regno, però non con le mani, con i cuscini, non si non si fanno male, dico che la mentalità, chi sa da dire qualcosa, si ha di fare con i cuscini. Ti parlo del 1973, mi ricordo anche il giorno, era un'estate del 73. gli amici hanno beneficiato in radio, così, per fesserie, l'hanno beneficiato la puntiglia, una più forte, perché provava la sopra con la corrimetta di quattro, per dire, in periferia, come posso essere io, e quindi lo grimbava e dove era la zia. Prendeva una macchina, si nascondeva le violi lì dove abitava lui e le metteva alla porta. Capito? Questo è diventato piatto. Perché era molto attaccato alla radio, le piaceva la radio, quindi passavano le ore lì, ma una forzata, come a me si è scherzo così, perché sono solo amorati, perché hanno detto una parola scherzosa, lì domani la mia meningite non l'ha accettata. Quindi proprio sì. Beh ragazzi, questo ragazzo era figlio di un carabiniere, alle 11:15 di notte, come stare, è uscito e non l'ha trovato. Dopo il secondo giorno, sempre tutti i giorni, per una settimana, uscivano a trovare, tramite amici suoi, persone, molto molto bastarde, perché a quel punto lì devi essere molto molto cauto e attento, capito? Se io sono nascosto, tu non puoi dire guarda che lì lo trovi lì. Successo così. Ha pigliato la bicola di Romabu, l'ha sparato tutta la macchina, e un proiettile lì si è infiltrato, lui si è nascosto sotto, il mercato si è visto così, si è nascosto tra il cruscotto e il proiettile è passato nello sportello e gli ha perforato il polmone, morto. Yes, I know, but since we don't, ordine da un mese. Sì, a Mario. Allora, guarda che Luca non sa ancora per conoscere Jimmy. No, conosce Jimmy, addirittura. Ho detto che tu devi ancora conoscerli i Jimmy. Io li conosco, scusa, io non lo so. A me, ripeto, se lo vedo come normale, sì, usano una frase, io sto tranquillo. A me, ma io poi sono stato messo a capo, vedi. Quindi, che è delle cazzate, quindi sono una cosa, ma certo, un numero senza me, infatti stavo parlando con Mario. Anche se non va bene ogni tanto, ma quando c'è un quarto figlio, va bene, si parla di più del meno. Tutto qua. Quando si può fare il casino, non di cugnati, parlo ogni tanto. Vedi la volta, cioè, stavo parlando con l'altro, io, tu, Adriano, Franco, diglielo. Sì, ecco, ma tu quindi quanto lo faccio però? Lo so, sì, ma ne facciamo abbastanza di ghiaccio, ma non è che è successo, non succede niente. Io ho sempre detto, qua dobbiamo fare ghiaccio, io sono il primo a mettermi a scherzare con tutti. Ma una volta, quando c'è qualcuno che ha necessità, una taratura di mantella, un'informazione particolare, dobbiamo cercare di adeguarsi al questione, no? Io so che è monotono, magari quando ci sono queste cose così, perché è monotono, lo so. Bisogna avere un po' di pazienza e fare prove, provette, oppure ti sposti di canale, solo che cosa fai? Io mi sposto con Franco di canale per fare delle prove, per dire, e disturbo Luca, oppure Luca si sposta col tizio e disturba quell'altro, e quindi dobbiamo cercare di vivere tutti nella stessa baracca, no? Buonasera Mario, ben sentito, già lo passi a Tino, lo passi. No Luca, tu di radio non ce la fai, ma è Claudio si parla di radio comunque. C'è problema? Oh, claro, c'è problema. Andiamo avanti, Mario. Gaffa gaffa, ho fatto la merendina, se voleva. Allora mi sono assentato un po', però vi stavo ascoltando. Gaffa gaffa, anda bene meda. Ma è meglio stazione Serini. Tanto non serve a nulla. Uno si arrabbia, si avvelena il sangue, campa 10 anni di meno. Invece la vita bisogna sorridere. E via, e tirare avanti. No, però non ce la fai, no, non ce la fai. Ciao Mario. Tanto allora dice, mi dove hai attaccato, Mario? Ma come lo senti di radio tu, Otti? Non è quello là. Ma una radio così, boh. Mamma mia, gara. Un fastidio, mi dà. La radio non ha preso a Cantello, si sta portando così 80, lui. Perché? Vabbè, perché c'è più forte e quindi magari per non sovramodularsi vanno lì al monte. No, ma io sono avanti 80. Ah, ieri? Allora? Beh, non lo so perché non c'ero, non vi ho sentito. Allora ti picchia, quando ci manca il capomaglia, sempre casino succede. Delinquenti siete, delinquenti. Gaffa gaffa. Roberto, ma Gianni dove è andato? Gianni, doppio rubo, ci sei fatto un poco. Ok, allora, è iniziato così, e prima stavo grattando, no? Ma ho fatto qualcuno, cioè più di uno, mi ha chiamato che lo io, vabbè. Ma proprio tatatà, è che è mollavo, tatatà è mollavo. E niente, eppure arrivano a 40 non passi. Io che mi basta la maledazione, a me proprio non me ne frega niente. E poi da lì, niente, ma con Franco, gli sono mandato e gli ho detto di passare al 20, da lì è andato il burro. Ehi, vabbè, poteva essere anche così a titolo di scherzo, va. Ma a me non è di quelli che ce la lega al dito. Ma si è tirato, ha chiuso, mi ha fatto la salvolta, poi già entra. È una persona abbastanza di spirito, non è? Ehi, conto 30 anni. Non c'è problema, dai. Non c'è problema. E lui, purtroppo, vabbè, succedono, ma... Adesso che lo sai, magari evitate, Genova, due giusti di gallina, basta. Per carità di Dio. Non prendete a puntiglia, Genova, ui. Diventa un patatrac e ci buttiamo tutto al vero, eh? A me, già non mi sentirete più. Io l'ho giurato, la prossima volta che succede casino, come quello che è successo l'altra volta, fosse questo estratto. Io qua mi attacco anche l'antenna, non voglio sentire più nessuno, avrò rotto a... Ripeti, sì. Ma venga, poi io lo so, sono brutto per puntire. Prima si faceva, ma prima mi ricordo che qualcuno usciva in macchina e si metteva sotto, sotto a casa di qualcun altro, per non farlo durare, ma lo, cioè, dico io, siamo in quattro, non è che bisogna fare queste cose qua. Vabbè, dai, cerchiamo di cambiare l'argomento, perché sennò siamo trattati da un altro argomento qua e non... E non togliamo la papa, la togliamo. Sicuramente Sì, il vero Barone Rosso, mi conosce verticale, perché sono stato anche a casa sua, così che non c'è da sbagliare, se no tu sei un secondo Barone Rosso che non sei l'originale. No, io ho una frequenza, ovviamente c'è un Barone Rosso originale, io non so se il nome è altro Barone Rosso, ma ripeto, adesso sarò 9-10 anni che non so più frequenza, quindi ho smesso per motivi di altro genere, capisci? Comunque, fa piacere sentire tutti voi, altro così, sono a casa di un amico che sto provando le paratine, comunque tutto a posto, sì. Già pagato, sì, tutto a posto. La ramodulazione non mi sembra l'originale Barone Rosso, va bene, ma no, perché uno esce e poi ne entra un altro con lo stesso nominativo, però mi sa che non va bene, quando lo trovo glielo chiedo se sta modulando ancora, e niente, riprendi Luca. Thank you. vicini, poi hanno attaccato l'antenna, gli hanno portato via. L'ho chiamato. Io ho chiamato da una macchina. Mi dispiace, vabbè, sono cose che purtroppo faccio volentieri a cavolo quando ci sono degli stronzi in giro. Il fumo è uscito dal tetto, il fumo, però no, un attimino. Mecca, mi ha colpito a salutarvi io, che vado a fare un po' di carico e poi è mamma perché la mattina. Però è dura e c'è tutta la giornata da passare in su, quindi non posso stare bene purtroppo. Vabbè dai, lascio il mic a Claudio, fai girare tutto i saluti e aspetto il finale qua e poi chiudo. Ciao, buonanotte a tutti, avanti. Ciao, aspettavo Mario, ciao Tino, cordialità, saluti e ci sentiamo alle prossime. Vai Mario. Ciao sì. Buona carica e buona giornata per domani, ci risentiamo alle prossime. Ciao vai Luca. Ciao a te, ciao, buona carica. Molto 44 e buona lavoro per domani, ci sentiamo alle prossime. Io mangiamo un po' una mollica, ripeto Roberto. Ciao Tino, ben sentito per la conversazione, auguro per domani buona giornata, ciao. Comunque non è l'originale Barone Rosso, Barone Rosso modulava esattamente da a Panapoli, tutto bella. Esatto. Mario, ascolta, guarda che tu hai la portata è ultima, solamente che devi avere qualche problema di microfono, che qua arrivi bassissimo. E il microfono che non va forse, come mi aiuti? Dammi un segnale là, così voglio guardare come ti arrivo lì a Ussi. Guarda, l'importante è che io sono pieno, però la voce è molto bassa, cazzo, c'è mio amico mi sta uccidendo qua. Non la metà, mi sta infilando siringa dappertutto. Avevo capito, devo riaccendere il vecchio mio Argus. Mario, basta così, lascia perdere qua, non sono già visti, boh. Mi dispiace davvero, tantissimo. Però è una scelta, boh. Non è radio, non cammella quella radio, non cammella, è molto meglio il tuo. L'Argus, l'altro addirittura è una voce allucinante, non so quale sia, qual è l'altro che usi a parte l'Argus? Quello è una bomba. Ancora sì. Antonio ogni tanto ci fa sentire, ma come ti dicevo prima, anche lui è radioamatore, quindi ci sentiamo in HF, ci sentiamo nelle altre bande superiori e quindi a volte facciamo le chiacchiere. L'altro giorno è entrato qua a chiamarmi, ha fatto due passaggi proprio e poi è sparito. Ciao, ciao, sentite. Bambina, grazie a tutti. Ciao, ciao, buonanotte. Piesi, Chiara Monti. Grandissimo di grandissima persona, però deve ancora imparare. Beethoven era un artista, è un'altra musica. Magari a qualcuno può anche non piacere perché sta diventando ripetitivo, però io Beethoven l'ho conosciuto di persona, ti posso garantire, se non stessi cantando in inglese, facendo musiche di personaggi importanti, non ce ne fa nessuno. Oltre che fare lo scemo, diciamo fare lo spirito, sa anche cantare, canta veramente bene. Sì, ma non parliamo di barista, io sto parlando di turista da solo. Se lo senti davanti a noi ha cantato, avevamo una presentazione, è venuto lui, non a fare a raccontare barzellette come fa sempre lui, a cantare. Siamo rimasti a bocca aperta, stava suonando lui e cantando lui, ma non l'avete sentito, era spettacolare. Siamo rimasti a bocca aperta, cantando in inglese, facendo tonalità di voce, di negri, di donne, allucinante. Sentire, veniva a toccare, tipo un'era importante, insomma, sentire un po' Roberto, capito? E si chiamano tutti, la comunità, no, non conviene assolutamente, è meglio andare d'accordo, perché se ci sono problemi loro fate quella figura uscendo, se ne fanno zitto e accusando, fate quella figura così. No, non è detto, ma molte volte le cose si possono anche chiarire, anche tramite il baracchino, uno pisa, parla, dice quello che c'è, quello che non c'è, e si chiariscono, non è il caso di io mi do la misura, io mi do così, io vado sempre potente, io viene seguro anche, non serve a niente, ti fai solo sangue cattivo e poi finisci che pigli la radio e lo butti per terra, e tacchi. No, comunque Antonello lui ha fatto una cosa, una scelta che no, che condivido, ha chiuso e basta, se è andato via, avrà detto qualcosa, ha detto che è sbagliato, non fa meglio di cane, però ha preferito andare via, la terza. Così facevo una chiacchierata, passarsi anche un paio d'ore, così tranquillamente, serenamente, via, no, non serve a nulla. No, io, non le trovo queste cose, magari io quando ero più giovane a qualche uno gli ho dato qualche schiaffo, però non c'erano problemi. Il problema è che sul baracchino non si vede in faccia, mi viene più possibile trovarsi già con l'appuntamento e chiarire di persona. No, ma cioè da quello che gli ho dato lo schiaffo, che poi me ne sono pentito perché all'epoca era un ragazzino, cioè entrava in baracchino, quando sentiva me si metteva a dire parolacce, a dire pizzerie, e niente, io un giorno senza volerlo l'ho trovato lì vicino al Tolucca, me ne sono trovato dalla macchina, non so che sono da mai da, se era in greppo o non in greppo, ha sbagliato, ha giocato due giappi, mi sono trovato a posare in macchina e me ne sono andato. E tutto è finito lì, ma non perché, solamente per il fatto che uno, cioè io non ne dico parolacce, non mi piace che dicano le parolacce, poi se c'è qualcosa da dire a me, viene e la dice a me, punto e basta. Condivido, sì, arriva, purtroppo è così, però ormai quando trovi è prepotente, cioè, ti invita alla radio stessa a cambiare due chiacchiere, due opinioni, due cose, alla fine si bisticcia sempre. Io oramai cerco di evitare, però purtroppo ho un carattere brutto anch'io e quindi evito e basta, capito? Almeno funziona. Io non ti muovo con i granulati, quindi tu mi conosci bene, perciò non me la funziona da me. E quindi faccio quelle persone che vengono e basta, io devo prima chiarire così, poi se c'è a chiarire di persona, problemi non ce ne sono, è normale, no? E beh, lì hai fatto la scelta giusta. Hai avuto? Sì, ciao, bimbo, va, ecco qua. Abbruciamo e fa vedere. Capito? Ci finisce lì. Gappa, gappa. Luca, andate a mangiare, sì. Gianni, dov'è? Gianni stava rientrando a casa, preparava qualcosa per cenare e poi riattaccava, ha detto. Vabbè, Luca, dov'è? Luca? Luca, mi sa che è andato a mangiarsi un panino, boh. Devi mangiare pane mollica, giusto? Capito, Robè, cioè, a me mi dispiace perché io, vedi, quando sono entrato in frequenza non ho mai detto parolacce a nessuno, è vero, cioè non mi piacciono perché giustamente Claudio c'ha figli, magari capitano che involontariamente passano davanti lì, ok, non devono sentire le mie sosserie o le sosserie degli altri. Come per mio figlio è la stessa cosa, quando era piccolo non mi piaceva che sentiva parolacce o roba del genere, capito? Era solo per quello, perché poi del resto non me ne frega niente. No, è giusto così, dai, no? Dai, questo per pensato per qualche attimo, qualche momento di cosa, di discussione, ma se ti devi parlare non è il posto giusto, se ne vai dall'altra parte. Diciamo, discuti, se non sei d'accordo con certe cose, si discute in modo civile. Però se ci mettono a fare le cose difficili, tante volte le ho sentite, sono da poco, ma le ho sentite anche io, anche da fastidio sentire delle cose. E ho visto la conversazione dicendo voi, si sarà un po' bravo, è brutto, poi delle persone che forse ne vanno via, sono forse c'è chiudere. E lui, come ho capito, ha andato proprio per problemi di bisticci e di gelosia. Gatta, ma in effetti è così, cioè uno preferisce chiudere anziché stare a sentire le susserie mie, per dire, oppure che tu ti metti a dire delle caponaggini, non va bene, perché giustamente la radio ce l'abbiamo dentro casa ci può essere gente di fuori, ci possono essere bambini, ci può essere qualunque genere di cosa che non va bene. Purtroppo la televisione è messo in vita quando c'è la parolaccia, e no, che non lo esiste un disco, solo un po' di galateo, là. Dappa, riprende Claudio. Lo so, purtroppo è così, non è che si può fare diversamente, capito? È così, bisogna già cercare di andare un po' d'accordo, cercare di sopportarsi uno con l'altro, non c'è il carattere un po' più così, l'altro così, insomma, cerca di andare avanti. E se no, buonanotte un gazzato, che volevo lì. Ok. Vabbè, sono le 8:15, anch'io vado a mozzicare qualcosa, allora, semmai ci sentiamo dopo Mario. E anche a te, Roberto. Una mezz'oretta di relax, là, e poi riprendiamo, K. Va bene, anche io ho fatto la stessa cosa, sta iniziando a muoversi qualcosa dentro l'automa. Buona carica a tutti. Niente, ci rivediamo più tardi. Ciao Claudio e ciao Roberto. Ciao Mario, a dopo, ragazzi, ci vediamo dopo. Ciao di nuovo Claudio, a dopo, ciao.